Avendo visto le halakhot del risveglio in passato, nelle lezioni scorse di halakha, le halakhot della Netilat Yadayim, ora ci avviamo verso le leggi, le halakhot che riguardano la tefilah. E come ho notato prima, è interessante il fatto che stiamo iniziando a studiare le halakhot della tefilah proprio durante questa settimana in cui si legge la parashah di Vayetzeh, nella quale leggiamo all'inizio del sogno di Yaakov Avinu, sogno in cui lui vede questa scala e sulla scala vede gli angeli che salgono e scendono, Olim v'Yordim bo. E appunto, come dicevo, c'è scritto nel Zohar che la scala, nella nostra esperienza, nel nostro servizio di Hashem, rappresenta la tefilah. E dice che ci sono quattro pioli su questa scala e quattro fasi nella tefilah che corrispondono ognuno a uno di questi quattro pioli, e la tefilah è quello strumento che, come quella scala, lega e unisce chi è posto ben fermo per terra, Mutzav Arza, come detto riguardo la scala, ma in cima, Roshò, la sua testa, Magia Hashamaima, arriva in cielo. E infatti una delle cose che sono scritte riguardo il comportamento in generale di una persona, che dovrebbe avere gli occhi rivolti verso la terra, al cuore rivolto verso il cielo. Cioè, gli occhi non devono essere rivolti sempre con il naso verso l'alto la persona, perché è un segno di presunzione, no? Quindi gli occhi rivolti verso il basso, ma il cuore, il pensiero, invece, non pensa alle cose basse, ma alle cose alte. Il pensiero, il cuore rivolto verso il cielo. Tra l'altro, su questa storia del sogno si racconta di un maestro hasidico, Rabbi Israel di Ruzhin, che quando era un bambino piccolo studiava con il suo maestro nella scuola tradizionale che si chiama il Cheder, ed era un bravo studente, molto bravo, e quando studiavano i versetti della Torah lui anticipava sempre con le sue domande le osservazioni di Rashi. Quando hanno studiato questo versetto qui, che Yaakov sognava degli angeli che salgono e scendono, Rashi risponde alla perplessità: in teoria dovrebbero prima scendere e poi salire. Se vengono dal cielo, dovrebbe essere Yordim, scendono, Veolim, e risalgono. Invece c'è scritto il contrario: salgono, Olim v'Yordim bo, salgono e scendono. E Rashi parla di questa cosa. E questo bambino studiava questo, gli veniva insegnato questo versetto e non ha fatto alcuna osservazione, alcuna domanda. Allora il maestro ha cercato di tirarglielo fuori, ha detto: ma ti è tutto chiaro? Non c'è nessun problema con questo, con la comprensione di questo passuk, di questo versetto? Dice: sì, maestro, è tutto chiarissimo. Dice: sei sicuro? Rileggilo, vedi un attimino se c'è qualcosa che ti disturba nella comprensione. No, no, è tutto chiaro. Dice: beh, perché in realtà Rashi solleva questa perplessità. Allora il bambino ha detto: per me non c'è nessuna perplessità. Si tratta di un sogno. Un sogno può succedere tutto. Però la realtà è che il sogno di uno tzaddik, che la Torah ci ha raccontato, non è un sogno come un sogno nostro, che può appunto contenere di tutto, e quindi diventa questa, diciamo, il Zohar vede in questo proprio questo significato qui della tefilah. Allora, se la tefilah è paragonata ad una scala in cui ci sono varie fasi, cioè i pioli della scala rappresentano diversi gradini di una salita e poi di una discesa, chiaramente vuol dire che la tefilah è una struttura. Una struttura, e una struttura comporta, include ovviamente un senso, un ordine e uno scopo, tra le altre cose. E quello cerchiamo un pochino di mettere a fuoco per poi procedere la prossima volta con le halakhot vere e proprie della tefilah. Allora, innanzitutto, cos'è tefilah? In questo esempio, in questa metafora della scala, abbiamo subito il concetto del legame, cioè legare due estremi, collegare due cose distanti e renderle unite attraverso questo collegamento. Cosa sono le cose distanti nella tefilah? Cioè la tefilah è il collante, è il legame, ma le cose distanti sono noi da una parte, siamo noi da una parte, dall'altra il cielo, dall'altra il nostro legame con HaKadosh Baruch Hu. E attraverso la tefilah dovrebbe esserci questo legame. Ora, da dove parte il discorso di tefilah? Ci sono moltissime fonti, e c'è una discussione sul Talmud nel Trattato di Berachot, sulle fonti, sulle origini della tefilah, e possiamo vederlo da diversi punti di vista. Innanzitutto, i maestri dicono che Abraham fu il primo che istituì o fece lui almeno la tefilah, la preghiera della mattina, Shacharit, e Yitzhak fu il primo che fece istituì quello di Mincha, pomeridiano, basato su un versetto che abbiamo letto nella parasha scorsa, Vayetze Yitzhak Lasuach Basadeh, verso sera, che è uscito verso sera, Lasuach. I maestri dicono En Sicha e la Tefilah, la Sicha, questa conversazione, è un riferimento allusivo alla Tefilah. E la terza, quella di Arvit, è legata alla persona di a Yaakov. È chiaro che quando noi parliamo di tefilà dei nostri patriarchi, non è strutturata e non è nelle formule, ovviamente, o nella maniera che noi siamo abituati a tefilà. Queste cose vengono a essere formulate molto più avanti. Innanzitutto, quando HaKadosh Baruch Hu ci ha dato la Torah, ci ha dato tutte le indicazioni delle offerte quotidiane, i korbanot, i sacrifici che venivano portati nel Beit HaMikdash, prima nel Mishkan e poi nel Beit HaMikdash, con una cadenza di un certo tipo di orario. Quindi abbiamo quello mattutino e quello pomeridiano. In realtà le tefilot vanno a seguire questi orari qua. Cioè la tefilah di Shacharit corrisponde al Korban Tamid, che si chiama il Korban costante, quindi perché è quotidiano, è tutti i giorni dell'anno, della mattina, e quello di Mincha corrisponde alla tefilah, al Korban, al sacrificio del pomeriggio. Korban Tamid c'è il Ben Arbaim, infatti queste cose le ricordiamo anche noi prima di fare tefilah nel Siddur, nella liturgia. Ben Arbaim che vuol dire? Ben Arbaim vuol dire Pomeriggio. pomeriggio. Pomeriggio non è... Perché Arbaim? Che vuol dire Arbaim? E da Erev, no, no, Arbaim con la Ain, Arbim, no? Arbaim, Ben Arbaim. Aravim sono sere, Arbaim è quel momento della sera, è come dire, tra le sere, è tra giorno e notte, non è né giorno né notte, ok? Per questo pomeriggio possiamo dire. Ora, queste tefilot, in realtà poi tra parentesi anche queste korbanot, che hanno lo stesso senso a livello spirituale, cosa vogliamo fare attraverso queste tefilot? E perché le dobbiamo fare? Se quando noi facciamo tefilah, stiamo facendo una mitzvah, che mitzvah è? C'è scritto nella Torah, fai tefilah? No, non, almeno non in queste parole. Allora, cos'è la mitzvah della tefilah? Allora, la prima cosa che dobbiamo sapere è questa. Noi abbiamo una mitzvah che nel momento in cui necessitiamo di qualche cosa, abbiamo un'esigenza, dobbiamo rivolgerci ad HaKadosh Baruch Hu per richiedere questa esigenza, questa necessità che abbiamo. momento di difficoltà o anche non momento di difficoltà, ma abbiamo sempre bisogno di qualcosa, dobbiamo rivolgerci a Lui. Allora, se qualcuno ha bisogno, per esempio, di una cura, ha bisogno di essere malato, ha bisogno di essere curato, deve rivolgersi ad HaKadosh Baruch Hu: mandami una cura. E poi va dal dottore, va dal medico. Cioè, la Torah non dice non andare, rivolgiti a Dio e non fare nient'altro. Se Lui vuole ti aiuta, se non vuole non ti aiuta. Come c'è chi ha questa filosofia. No, la Torah dice verrà poi il rapè, il medico ha il permesso di curare. Però è chiaro che è un canale. Esatto, cioè è un canale. Esatto, è un canale che HaKadosh Baruch Hu usa, diciamo così, per mandare la sua berakha, però tu la berakha la devi chiedere alla fonte. Poi metti in atto lo strumento, ok? Allora, la tefillah come base è l'adempimento della mitzvah di chiedere ad HaKadosh Baruch Hu le nostre esigenze. Questa cosa, dove si esprime nel libro di Tefillah, così come lo abbiamo ora, si esprime nella parte centrale e più elevata dei quattro livelli della Tefillah, che è la Amidah. Nella Amidah, di tutti i giorni feriali, tre volte al giorno, noi facciamo questa cosa. Se poi andate a vedere sul libro di Tefillah, sono incluse tutte le richieste che ogni persona potrebbe avere. Per sostentamento, per salute, per intelligenza, per libertà, per redenzione, per rapporti tra le persone. Rapporti tra le persone. Tutto quello che serve ad una persona è racchiuso nelle benedizioni, perché è formato da diverse berachot, l'Amidah, della Amidah. E la Amidah è tefillah per eccellenza. Nella Mishnah avremo poi modo di vederlo quando studiamo Mishnah, e anche nel Talmud avremo modo di vederlo quando studiamo Gemara. Quando si usa il termine Tefillah è un riferimento non all'insieme di tutte le preghiere come noi lo usiamo il termine Tefillah, bensì è un riferimento specifico alla Amidah. Tefillah è Amidah. Ok? E quindi questa è una mitzvah. La domanda è se la cadenza, la frequenza è anche una mitzvah della Torah o meno, cioè il fatto di farlo ogni giorno. Su questo non tutti i maestri sono d'accordo. Se il fatto di fare la tefillah ogni giorno è una mitzvah biblica o è considerata una mitzvah rabbinica, è sempre una mitzvah. La prima è come rispetto a questa? Com'è? Cioè la mitzvah base è della Torah. Una mitzvah della Torah. La domanda è la frequenza, sì, se è della Torah o no. Già con l'occasione. Sì, bene. Allora, questa è una cosa che noi facciamo nella Tefillah. Noi chiediamo le nostre esigenze. Se ci pensiamo, prima stavamo dicendo che la Tefillah è un legame, sembrava una cosa molto spirituale, molto profonda, un legame tra noi e Dio. Adesso stiamo dicendo che la Tefillah, abbiamo bisogno di qualcosa, dobbiamo chiedere ad HaKadosh Baruch Hu. Sembra un po' meno... ecco, però in realtà non è così, perché il vero rapporto si esprime in questo, nel riconoscimento che noi senza della sua benevolenza, del suo benvolere, non siamo nulla e non abbiamo nulla. Quindi il riconoscimento della piccolezza dell'uomo e la grandezza di Dio, in certo senso, parte da lì. Quando una persona può considerarsi umile, quando riconosce la propria incapacità e le proprie mancanze, e davanti ad HaKadosh Baruch Hu, chiaramente, siamo tutti in un certo senso incapaci, nel senso che non abbiamo nessuna possibilità di muoverci o di fare o di avere qualcosa senza appunto il suo benestare, giusto? Allora, se quando noi riconosciamo questo nella Tefillah, attraverso la Tefillah, questa è la base dell'apertura del nostro rapporto. Perché per avere un vero rapporto bisogna conoscere se stessi, bisogna conoscere in un certo senso, fin quanto possibile, colui con il quale si vuole avere il rapporto. Allora, il riconoscimento della propria umiltà, del proprio essere estremamente piccolo, estremamente debole, estremamente umano, quello che noi siamo, è in realtà ciò che fa sì che il rapporto sia possibile. Allora abbiamo una mitzvah di riconoscere quindi che tutto viene da Kadosh Baruch Hu, e questa mitzvah, e quindi glielo dobbiamo chiedere a lui, e questa mitzvah si esprime nella tefilah. Ok? E quindi l'Amidah è il momento della massima umiltà. Ecco perché durante l'Amidah noi dobbiamo stare quasi totalmente in silenzio, si dice a bassa voce l'Amidah, e anche in piedi, anche con i piedi uniti, senza troppi movimenti, proprio per indicare il senso di questa tefilah. Queste sono delle norme che rispecchiano cosa è quel momento della tefilah. È un momento che il Talmud definisce con le parole che Avda Kameh Mareh, come uno schiavo o un servo davanti al proprio padrone, dove uno riconosce che tutta la propria esistenza non è altro che per la volontà di quel padrone, con la P maiuscola. Quindi il massimo livello di umiltà. E questa è l'Amida. Allora perché non apriamo la tefila con l'Amida? Dovremmo iniziare con l'Amida. Oh, allora la scala di cui parlavamo prima è la possibilità, è diciamo uno strumento che ci aiuta, sono come delle stampelle che ci portano verso quel livello di umiltà, quel livello di annullamento del proprio io, bitul nel linguaggio hasidico. Bitul Hayesh, annullare il proprio essere, cioè non la propria esistenza, ma scusate, il fatto che io sono. Tu ci sei, sei presente, ma non io sono. Io sono nega la presenza di un'altra cosa, anche del divino, mai sia. Però per realizzare che io non sono così come penso di essere, bisogna faticarci sopra, bisogna lavorare. Bisogna arrivarci, non è la natura dell'essere umano, è esattamente il contrario della natura dell'essere umano. Di conseguenza abbiamo tutto quello che si chiama tefilà intorno per arrivare a, e poi per scendere, diciamo, dalla montagna della Amidah. Cosa abbiamo? Allora, chiaramente abbiamo durante la tefilà la mattina anche un'altra mitzvah, a parte quella dell'Amidah, la mitzvah della tefilà. Abbiamo la mitzvah di recitare lo Shema. E appunto di questa mitzvah stiamo parlando nella lezione di Gemara, nel Trattato di Berachot, secondo capitolo che stiamo studiando. La mitzvah dello Shema è invece, a differenza della Tefilah, una mitzvah alla quale la Torah stessa dà un'indicazione chiarissima su quando e con quale scadenza deve essere fatta questa mitzvah, ed è ogni giorno, la mattina e la sera. Questa mitzvah è accompagnata da ciò che si chiama le Berachot dello Shema, che sono due brani di benedizione che precedono lo Shema, e un brano la mattina e due la sera che seguono lo Shema, perché si chiamano Berachot? Perché aprono e chiudono con la forma Baruch Atah Hashem. Quindi la prima è Yotzer, la mattina Baruch Atah Hashem, Yotzer Oru Borei Choshech, questo apre, poi chiude con Yotzer Ameorot. La seconda apre con Ahavat Olam o Ahavah Rabbah, secondo il rito, e conclude con Habocher Be'amo Yisrael Be'ahavah. E a quel punto si recita lo Shema e poi si conclude di nuovo con un'altra benedizione, Emet Ve'Yatziv o Emet Ve'Emunah, e si conclude o con Gal Israel direttamente con la Amidah, oppure con Gal Israel e poi Ashkivenu come nell'Arvit, e poi la Amidah. Quindi abbiamo Amidah, in precedenza all'Amidah abbiamo lo Shema con le Berachot dello Shema, che i maestri hanno istituito per accompagnare lo Shema e fanno parte di questo percorso che adesso vedremo. E in precedenza alle Brachot dello Shema abbiamo tutta un'altra sezione della Tefilah, che anche quella apre e chiude con una Berachah. Apre con Baruch Sheamar e chiude con Yishtabach. Melech Yachid Heolamim, o Melech, secondo il rito, più o meno queste sono le parole. In mezzo tra queste Berachot, in mezzo a questa Berachah abbiamo tutta una serie, soprattutto di salmi, ma anche qualche brano da altre fonti, come dalla Torah, Azyashir Moshe, il canto del mare, che si chiama, questa sezione della Tefilah si chiama Pesukei Dezimra, cioè versi di canto, di lode, in cui noi recitiamo, come ho detto, molti Teilim, molti salmi e alcuni altri brani sulla grandezza, sulla meraviglia della creazione e del creatore, entrando nel dettaglio di tutto ciò che lui ha creato e ha messo a nostra disposizione, diciamo, in questo mondo. Parliamo della grandezza del Signore. Prima ancora di questo c'è la parte che abbiamo già approfondito nella lezione di Halakha, cioè le Birkot HaShachar, le Berachot della mattina. Allora noi siamo andati adesso dalla fine verso l'inizio. Ora, per ricapitolare, facciamo il ordine inverso, senso che facciamo effettivamente la mattina. Allora l'ebreo si sveglia la mattina e chiaramente dice il Modeh Ani, cui abbiamo approfondito, e le Berachot della mattina, cioè appunto le abbiamo già approfondite, quelle benedizioni in cui noi ringraziamo Hashem per i semplici e scontati movimenti e azioni che siamo, grazie a Dio, in grado di fare dal momento che abbiamo fatto il risveglio. E dopodiché arriviamo verso le Psuche di Zimra, cioè questi versetti di ringraziamento, di lode. Molti sono, sì, degli ultimi salmi. Ora, perché stiamo facendo questa cosa? Su che di Zimra in realtà possiamo considerarlo il primo gradino di questa scala. Dei quattro pioli, questo sarebbe il primo. Guardiamo le parole del Baruch Sheamar per capire dove vogliamo arrivare con questa prima scala, con questo primo gradino. A che cosa vogliamo accedere? Nel libro tradotto, pagina 33, o 15, nell'altro. Allora, la prima frase, Baruch Sheamar Vehayah Olam, che si traduce con benedetto sia colui che con la parola creò l'universo. La prima cosa affermiamo, perché siamo qui? Perché lui l'ha voluto. E poi si può approfondire. Come ha creato? Gli bastava una parola. Con la parola creò l'universo. Questo è anche già per indicare la grandezza. La nostra parola può creare o distruggere, però virtualmente. La parola di HaKadosh Baruch Hu letteralmente crea. E quindi con la parola creò tutto, e procediamo lodandolo in questa creazione, da vari punti di vista, come ognuno potrà poi vedere. Ed apriamo in questa Berachah la recitazione di dei salmi che poi seguono. E facciamo riferimento specifico in questa Berakha a questi salmi. Come vediamo, se vedete in mezzo al paragrafo di Baruch Shamar, c'è scritto: Benedetto sii tu, o Eterno Dio nostro, cioè Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech Haolam, che sei lodato, celebrato e onorato dalle voci della tua nazione, c'è un riferimento a quello che andremo a fare, e dalle parole di tutti i tuoi devoti e servi, con gli inni del tuo servo David. Noi anche useremo questi inni, quindi anche noi ti loderemo, celebreremo, esalteremo e ti dichiareremo Re Eterno, Dio nostro, ricorderemo il tuo nome, eccetera, eccetera. E concludiamo, Re lodato nelle celebrazioni, cioè un riferimento a questi psukim, a questi versetti e salmi, e come dicevo anche di altre fonti, che noi adesso andremo ad inneggiare per lodarlo, per celebrarlo, per esaltarlo, eccetera. Questa è l'apertura. Quindi con Baruch Shamar si apre questa sezione della Tefilah, che si chiude con la conclusione di Yishtabach, che chiude questa Berakha. Ecco perché studieremo che non si può interrompere tra Baruch Shamar e Yishtabach con altre parole che non sono quelle della Tefilah. Quindi fare conversazione, parlare, dopo sì, però è un'altra sezione, stiamo parlando adesso di questa sezione. Sì, è vero che anche in pratica non si può interrompere fino a dopo l'Amidah, però adesso vediamo la struttura. Come Shema, divido qua. Ci sono delle divisioni interne, quindi per alcune cose, come vedremo quando studieremo la halakha specifica, per alcune cose si può interrompere tra la fine di Yishtabach e l'inizio della prossima sezione, che sono le Berachot dello Shema, il Yotzer si chiama. Ok? Però questa sezione è composta da inizio Baruch Shamar, apertura Baruch Shamar, tutti i salmi in mezzo e chiusura Yishtabach. Di fatto ogni sezione è divisa dal Kaddish. Normalmente una sezione si divide dall'altra con il Kaddish. Normalmente, non sempre. Per esempio la mattina non c'è il Kaddish tra la fine del Berachot lo Shema e la Amidah, che la sera invece c'è. Ci sono diversi criteri, però in generale ogni sezione è divisa da un Kaddish. Allora noi a questo punto, avendo concluso l'apertura verso le Psuche di Zimra, iniziamo con un salmo, che è il salmo di ringraziamento, Mismor le Todah. In questo salmo di ringraziamento non solo si ringrazia Kadosh Baruch Hu per averci creato, per averci reso gregge da lui pascolato, eccetera, ma anche si parla del servire a Kadosh Baruch Hu. Guardiamo questo salmo un attimino. Mismor le Todah, Ariu Lashem Kol Haaretz, salmo per il sacrificio di ringraziamento, cioè questo mismor è quello che si recitava in collegamento al Korban Todah, cioè un sacrificio personale che uno portava nel momento in cui aveva l'obbligo di fare un ringraziamento. Qual è il momento in cui c'è l'obbligo di ringraziare a Kadosh Baruch Hu? Non sempre c'è l'obbligo del Korban. Qual è quel momento? Questo è un esempio. Sì, è un esempio di un Korban Shelamim, però il Korban è portato negli stessi momenti in cui oggi noi facciamo la Berakha del Gomel, quello che a Roma chiamano lo scampato pericolo, è la stessa cosa. Ci sono dei momenti in cui noi abbiamo l'obbligo di ringraziare, e questi effettivamente sono i momenti in cui vige l'obbligo di ringraziare attraverso questo Korban Todah, questa offerta di sacrificio di Todah. Come anche Kippur. Perché anche Kippur? Si danno, non so, un campato pericolo. No, ma a Kippur c'è anche la cosa di dare il Korban. Sì. Dei polli. Allora, no, questa è la capara. Questa è un'altra. Ochoz. Scusa. Un'altra cosa. Ok. Ok, ne parleremo a Kippur. Ok, però quello che volevo fare presente appunto il secondo versetto di questo salmo, dove dice: Ivdu et Hashem besimcha, servite l'Eterno con gioia, bou lefanav birnana, venitegli davanti con canti. Se parliamo di ringraziamento, perché parliamo di servizio? Cosa è il servizio? Ivdu, servite Hashem. Dove altro ci viene detto di servire Hashem? In quale altra fonte ci viene detto con questo verbo, la avod, ivdu? O sempre un'altra forma del verbo la avod, avodà, di servire Hashem? Dove lo troviamo? Lo troviamo nello Shema. Ve'ahavta è ahava. Però più avanti nello Shema è scritto le ovdo. Le ovdo, servire Hashem. Benissimo. Allora i maestri si chiedono, servire Hashem, ok, noi siamo qui, lui è lì, lui è lui, come esattamente possiamo servirlo? Il caffè forse non gli serve. Il cornetto nemmeno. Cos'è il nostro servizio di Hashem? Allora guardiamo bene il versetto. Le ovdo bechol levavchem. Servirlo con tutto il vostro cuore. Allora i maestri dicono, è un servizio che si effettua col cuore. Qual è il servizio che si effettua col cuore? Eizohi avodah shebalev, dicono i Chachamim, zo tefilah. Questa è la tefilah. Cioè la tefilah è definita come una avodah, come un servizio con il cuore. Nello stesso modo che la avodà è il servizio che si svolge nel Beit HaMikdash, anche ognuno di noi diventa un piccolo Beit HaMikdash, un piccolo santuario attraverso la tefilà, perché è un servizio di Hashem la tefilà. Allora la cosa molto importante qui è di capire, di ricordare che sebbene abbiamo detto prima che la tefilà è una mitzvah che noi abbiamo per richiedere a lui le nostre esigenze, ma la tefilah ha un duplice ruolo. Quello è il primo dei due, e il secondo è questo, quello della avodah. Quindi uno dice: io a me non serve niente, sono a posto. No, la tefilah non è solo la richiesta delle proprie, a parte che non esiste nessuno che non gli serve niente, però non è solamente la richiesta delle proprie esigenze, è il modo che noi siamo tenuti a servire Hashem. Serve perlomeno, se non ti serve niente, tenere quello che c'hai, c'ha già qualcosa. Cosa stiamo servendo Hashem? Con cosa? Cosa gli stiamo portando? Il cuore. Esattamente, è il cuore stesso che noi dobbiamo rivolgere e portare verso Hashem. Il Korban. Il sacrificio, il punto del sacrificio non era la bestia, era il cuore della persona che portava la bestia. E quello stesso servizio abbiamo oggi. Quello era un'espressione materiale del sentimento della persona, ma anche nella mancanza di quell'espressione materiale. Il cuore della tefilà, l'anima della tefilà è quella di far presente il proprio cuore nei confronti di HaKadosh Baruch Hu. E qui servono questi gradini. I gradini sono per aiutarci ad aprire quel cuore, quel nostro cuore, per essere più recettivo, apprezzare, ecco perché parliamo di ringraziamento e poi di lode, di canto e della creazione stessa, apprezzare, riconoscere. Non è un caso che siamo qui e non è un caso che esiste tutto ciò che funziona per far sì che noi potessimo essere qui. Funziona meglio, funziona peggio, però siamo qui. E l'universo è davvero una grande meraviglia. Questo ci apre la mente e di conseguenza ci inizia ad aprire il cuore nei confronti del Creatore. Nel senso più semplice. Su che desimbra? Dimmi. Una perplessità, nel senso, La tefillah va bene, è la scala che porta su, tecnicamente è quello che dobbiamo fare per arrivare su, no? Però potrebbe esserci... Per legarci al su. Per legarci, va bene, però io diciamo che intimamente ognuno di noi poi fa la preghiera in modo col cuore, sentito, e sente di essere legato alla fonte, ma senza dover passare a attraverso la tecnicità della tefillah. Nel senso, se la mia consapevolezza mi mette, devo chiedere una cosa o ringraziare, dentro di me penso e vado direttamente alla fonte a dire grazie. Non ho bisogno della tecnicità della tefillah per arrivarci. Ci sono arrivato più velocemente. Ma non è una velatura. No, non, tecnicamente non ci sono arrivato attraverso le fasi, però ci sono arrivato col cuore. Senti tu di esserci. Sì, ha più valore però, dentro di me una cosa del genere, piuttosto che allora, questo. Uno non escluderà. Qui ci sono, un'ottima osservazione, ci sono alcuni punti legati a questa cosa. La prima cosa è assolutamente vero che l'anima della tefilah non può essere tecnica, perché puoi avere tutte le tecniche del mondo e metterle in atto, ma se non c'è l'anima, non c'è il cuore, è un recipiente vuoto. Ok? E in realtà, vedendolo anche dal punto di vista storico, noi leggiamo una Mishnah sul Pirkei Avot, dove la Mishnah dice: Al ta'aseh tefilatcha keva. Non fare sempre la stessa tefilah. Che vuol dire non fare sempre la stessa tefilah? È scritta lì. Come posso fare una tefilah diversa? Allora, questa Mishnah in realtà è stata detta prima ancora che fossero formulate le tefilot così come le abbiamo adesso. In altre parole, serve qualche tipo di rito, di ritualità, perché non può essere un rito senza regole, non è un rito. E ci sono anche delle regole base di rispetto, di approccio giusto, che vanno rispettate. Quindi una struttura, sì, diciamo una struttura, anche se non rigida, ma qualche struttura serve, ok? Perché per te forse lo fai, ci arrivi direttamente in maniera rispettosa, però uno potrebbe dire: io ci arrivo attraverso la cocaina, io ci arrivo attraverso un party. C'è chi dice così, ma non è io non ci arrivo attraverso, però in realtà uno... Sono modi che non sono rispettosi, se noi pensiamo davanti a chi ci troviamo nella tefilah. E secondo, uno si illude spesso di arrivare. Crede di arrivare, e forse arriva, ma in un'altra stazione. non nel posto giusto. Però concludo quello che dicevo prima. In realtà, la tefilah in origine, ognuno doveva formulare da solo. Qualcosa va formulato, però doveva formulare da solo, ovviamente con le proprie parole, con la propria sincerità, con l'onestà con se stesso, ovviamente conoscere bene il proprio livello, e questa è la tefilah che è espressa con il cuore, perché la persona formula la sua esigenza di quello che veramente gli serve, il suo rispetto che vuole esprimere in quel momento, eccetera, il suo ringraziamento e così via. Storicamente questo ha funzionato fino a un certo punto, perché con la dispersione, con l'esilio del primo tempio e prima della distruzione del primo tempio e della distruzione del primo tempio di tutta quell'epoca babilonese, ha fatto sì che siano persi molti punti di riferimento, come anche la lingua stessa, il giusto modo di esprimersi nella lingua Lashon HaKodesh, nella lingua sacra. E le regole e le modalità giuste non era più una cosa fattibile da... Sicuramente c'era qualcuno che lo poteva fare, ma dalla maggior parte o dalla collettività era quasi caduto in disuso, diciamo, il vero senso della tefilah. Ma forse pure il pericolo dell'assimilazione pure ha portato a creare Uno dei problemi in quel periodo era anche l'assimilazione. Quindi sì. Perché chi conquistava metteva sotto l'altro. Allora abbiamo avuto in quel periodo una grande beracha, che è un gruppo di persone, 120 persone, che si chiama Anchei Knesset HaGedolah. Knesset HaGedolah, la grande assemblea, perché normalmente il nostro Bet Din HaGadol, il grande sinedrio, è di 71 giudici. Questo non era, era qualcosa di molto più importante sotto molti punti di vista, ed era Knesset HaGedolah di 120 grandi maestri, saggi, tra cui anche alcuni di profeti, gli ultimi profeti, Haggai, Zecharia, Malachi, Ezra. Ezra era uno dei più importanti di questa assemblea. C'era tra loro anche Mordecai, famoso Mordecai della storia di Esther. Una grande impresa si sono assunti sulle loro spalle, ed era quello di formalizzare molti aspetti dell'ebraismo. Quindi la formulazione delle berachot, delle tefillot, nel modo in cui praticamente ci è arrivato fino a noi, è grazie a loro. Cioè loro hanno creato una struttura che è adatta, quando la usiamo bene, a fungere da strumento per il cuore di ognuno di noi. Una parola. Una cosa incredibile. Cioè, in effetti, cioè ognuno si può ritrovare nella tefilà. Tocca il suo, sì. Tocca ogni cosa umana. Però segue tutti i parametri, sì, certo. E tutte e tutti i criteri di ciò che deve essere tefilà. Cioè, anche lo stato d'animo. Esattamente. Cioè, che tu oggi puoi avere un tipo di stato d'animo, però lo ritrovi. Ritrovi la risposta e domani un altro, e lo ritrovi anche, ritrovi sempre. Esattamente, hanno fatto una cosa molto particolare. Sì, questo che ha detto adesso, che quando la mattina, qualsiasi momento, tu leggi una preghiera, devi capire il senso di ogni parola, perché mentre la dici e tu vedi una parola, ti viene in mente dei pensieri, per dire, l'indomani la rileggi, vengono altre cose. Benissimo. È sempre la stessa parola, però ti porta qua e ti giusto, manda via. Le stesse parole della tefilà che noi ripetiamo assumono significati diversi. Ecco perché uno non deve leggere la preghiera barbom, esatto. Ora però voglio tornare alla domanda di Leonardo, perché ho risposto solamente in parte. Questa è la prima cosa che bisogna capire, cioè dare validità a quel sentimento. Io ci arrivo col cuore, sì, ci arrivo col cuore, però spesso succede che io dico a una persona, mettiti i tefillin. No, non mi servono i tefillin, io ci arrivo col cuore. Ci sono alcune cose che bisogna arrivarci col cuore, ci sono alcune cose che bisogna arrivarci col cuore, e ci sono alcune cose che bisogna arrivarci attraverso certi strumenti. Non è lo stesso punto di arrivo. Col cuore bisogna amare e temere il Signore. E ci sono dei sentimenti che non si possono esprimere in un atto fisico o nella formulazione di parole da recitare. È vero, e non bisogna perdere quei sentimenti. A volte sono, in un certo senso, ancora più profondi, più legati all'essenza, e quindi arrivano direttamente all'essenza. Però ci vuole lo strumento. Lo strumento, ci vuole anche il binario dello strumento. Perché è un altro binario. Vuol dire, quando tu ti leghi ad HaKadosh Baruch Hu con un sentimento che ti senti legato col cuore, diciamo così, la tua profondità della tua esistenza, la tua essenza, si sente legata ad HaKadosh Baruch Hu, nessuno lo mette in dubbio. Sicuramente è così, perché c'è quel legame profondo. Però con quel legame tu hai saltato tutti gli altri aspetti della tua persona. Hai facilitato anche nel rapporto, perché sembra come che questa cosa che ti ho detto poi viene riportata anche in altre cose. Cioè, l'importante è che io lo sento dentro, il rapporto mio. Sì. Però poi nell'azione non si deve esprimere nell'azione, invece. Nell'azione non c'è bisogno che lo faccio. È come dire, io sento forte lo spirito verso Israele, però questa mitzvah non la faccio. Esatto. Cioè, è un parallelismo che viene spesso utilizzato. Bra. Allora, questo voglio dire, tu con questo tipo di rapporto che è valido e serve e c'è, salti, ripeto, salti tutto il resto della tua persona, che quello rimane non legato. Allora vuol dire, nel momento in cui tiri fuori quel legame, sì, ho capito, allora senti quel legame, ma quando quello non è normale che sia sempre rivelato, diciamo, sentito, aperto, rimani quello che eri prima. La tefilà è uno degli strumenti più importanti per farti crescere tutta la persona. Cioè, ognuno ha la scintilla dentro l'anima che è sempre legata anche con la... Anche nel, abbiamo studiato nella Chassidut, anche nel momento che una persona pecca, mai sia, la scintilla interna, profonda, nascosta della sua anima, è in quel momento stesso è attaccata da Kadosh Baruch Hu. Allora dice, vabbè, tanto sto a posto. No! Il motivo per cui siamo qui è per far espandere quella scintilla sul resto della persona. E questo è lo strumento. Piano piano uno cresce attraverso la tefilà, con la fatica, con l'approfondimento, con il significato, a rendere sempre bitul, ad annullare sempre di più quegli aspetti del proprio io che rimangono, diciamo così, tra virgolette, presuntuosi, cioè pieni di sé. È già una presunzione dire che io non ho bisogno della preghiera per... Sì, però bisogna capire il motivo. Quello che io ho detto subito. Vabbè, sembra una senza cattiverato di presunzione e arroganza. Per lo meno a me è una cosa che senti, dopo un po' che comincio a farlo. No, non puoi fare a meno di non farlo, senza un giorno non lo fai, senti male, non puoi... Cioè, la tua giornata è... Tu ci pensi un attimino, quando tu fai di là, una mattina magari... Tu che giorno che non vieni qua. La fai con un certo tipo di attenzione, cioè è difficile riuscire a fare. Allora vi racconto una storia, un aneddoto più che una storia. Un Hasid che faticava molto per crescere nella tefilà e, come nella tradizione hasidica, faceva molto approfondimento di meditazione di quello che studiava nelle opere della Hasidut come preparativo alla tefilà. E veramente riusciva a fare, che non è una cosa facile, bisogna anche allenarsi, diciamo, mentalmente a farlo, approfondire, meditare, tenere il pensiero su questi concetti per tanto tempo, per ore, come preparazione. E poi quando arrivava alla tefilà, era come se diventava un'altra persona e non trovava quel senso profondo, cioè faceva la tefilà, recitava e andava avanti. E stava male da questa cosa, dice, com'è che prima della tefilà riesco veramente ad entrare nell'anima di me stesso, nel... e durante la tefilà non riesco. Allora lui si è consigliato con un Hasid importante, anche un grande maestro, e lui gli ha risposto, questo maestro gli ha detto: cosa ti importa a te se tu fai la tefilà prima della tefilà? Cioè gli ha detto, lo scopo spirituale della tefilà sei riuscito già ad ottenerlo nella fase precedente. In altre parole, quando noi parliamo di tefilà come struttura, ci sono le regole, ci sono i criteri ben chiari che noi approfondiremo nelle prossime lezioni, la halakha della tefilà. Per quanto riguarda il cuore, ognuno ha il cuore diverso. Allora può essere uno che, come dicevi tu prima, un pezzo della tefilà lo prende, un altro giorno la stessa persona o un'altra persona gli prende un altro pezzo della tefilà dove si sente più legato. Non è che si può pretendere, diciamo, da noi esseri umani limitati, bassi di quello che siamo, che tutta la tefilà sia questa esperienza sublime, spiritualmente sentita. No, non è... Cioè, ci si può arrivare, forse dopo tanti tanti anni di approfondimento, di fatica, di fare tefilà come si deve, però la partenza di capire la struttura della tefilà, di capire dove vogliamo arrivare e di iniziare ad approfondire pezzo per pezzo, giorno per giorno, quello che stiamo facendo. Allora, dicevamo, la prima parte è le psuche di Zimra, sono questi che parlano della creazione in generale. per aprirci al mondo di Akadosh Baruch Hu, di iniziare a conoscere Akadosh Baruch Hu attraverso le sue opere. Quali opere? Le opere che sono evidenti a tutti noi. Questo soprattutto è quello di cui parliamo nel Psuche di Zimra. E poi andiamo alla seconda fase, che è quella delle Berachot dello Shema, dove noi iniziamo a parlare anche di esseri più spirituali. Infatti citiamo il Kadosh Kadosh, il Baruch Kevod, parliamo di come non solo il mondo nella creazione stessa, come abbiamo visto nel Psuche di Zimra, diciamo inneggia al suo creatore, anche esseri superiori, spirituali, come i Malachim, gli angeli. E noi cerchiamo di ritrovarci in quelle parole che loro esprimono. E nella seconda Berachà lo applichiamo al popolo ebraico. Avat Olam parla direttamente del rapporto di affetto, di vicinanza, di amore, Ahava, tra che HaKadosh Baruch Hu dimostra nei nostri confronti. E dopo di ciò arriviamo alla fase dello Shema stesso, dove nello Shema, dopo tutta questa introduzione, da parte nostra, diciamo a lui, noi siamo tuoi. Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Noi accettiamo, affermiamo di essere sotto la tua autorità, e di conseguenza Ve'ahavta, si approfondisce il creatore, si arriva ad apprezzarlo, ad amarlo, e di conseguenza mettere in atto lo studio, Veshinantam Levanecha, Velimadetem Otam, lo studio e l'azione delle mitzvot, Uchtavtam al Mezuzot, Ve'ayule Totafot, eccetera, eccetera. L'atto pratico che risulta dal sentimento, che risulta dall'approfondimento che abbiamo fatto prima. Dopo che si conclude lo Shema e di nuovo le Berachot dello Shema, allora ci poniamo davanti ad HaKadosh Baruch Hu con un senso di bitul, con un senso di annullamento del proprio io che si esprime nella Amidah. E quindi di nuovo quel silenzio, quel modo, quel criterio che fa sì che l'Amidah abbia questo senso anche nel suo decoro esterno, diciamo, il protocollo dell'Amidah, che esprime questo concetto del bitul, dell'annullamento. Il momento del legame in cui uno si abbandona a lui. Uno si abbandona, cioè nel senso riconosce veramente che non è nulla. E di conseguenza deve chiedere da Kadosh Baruch Hu le proprie esigenze. La parte più elevata della tefilah si lega alla parte più bassa, perché come abbiamo detto prima, chiedere le tue esigenze, chi sei te che chiedi le tue esigenze? No, proprio perché realizzi di non essere niente, devi richiedere a chi invece è tutto di poter avere gli strumenti con i quali servirlo, con i quali portare a termine il suo scopo che ti ha messo qui per lo scopo. Però questo lo puoi realizzare solo dopo questo percorso, solo che quando arrivi in cima alla scala, allora realizzi, ti rendi conto, riconosci, non sono nulla, ma sono qui per un motivo. Anzi, proprio perché sono nulla, sono qui non per me, ma per un motivo. Sono uno strumento che deve fare qualcosa. Non con le proprie forze, ma con quelle forze che HaKadosh Baruch Hu mi dà. Allora la richiesta dell'Amidah, il rapporto e la richiesta vengono insieme. Sì. Posso chiedere una cosa? Nello Shema, avevo letto, c'è scritto Vekolevavecha, con la Psecha, no? Quando dice tutto il cuore, sì, è inteso la parte positiva e la parte negativa di noi, no? Giusto. Senza tutto il cuore deve amare anche quella parte negativa. Quando tu sei nell'Amidah e fai richieste, sono anche qui entrambe le parti, o è solo la Neshama che si lega? Quando tu gli annulli, anche che cos'è che annulli? Tutto. La tua neshama non è annullata. Anche l'altra parte non è annullata. Annullata non vuol dire che sparisce. Annullata vuol dire che è umile, che riconosce che... Bitul, Bitul vuol dire in questo contesto qui, ci sono diversi livelli di Bitul, però Bitul Ayesh che si chiama, cioè annullare il io sono, non annullare l'esistenza. Sì, sì, certo. Annullare il fatto che io sono. L'ego. Non io sono, non è ego. È la presenza, ma è la presenza di in funzione di. Sì, sì, sì. Non perché sono io. E quindi certo che coinvolge, deve coinvolgere sempre sia l'anima divina che l'anima animale, cioè il compito dell'anima divina è di coinvolgere l'anima animale. Prego. Perché si dice prima ve'afka ve'kol livafra ve'af dopo ve'kol nafshecha? Non dovrebbe essere kol nafshecha ve'kol livafra? No, perché qual è la levavra che non hai nominato durante tutti questi discorsi nafshecha, hai nominato solo livafra. Ok, allora scusa, no bechol, perché vuol dire due cose diverse. Bechol levavra perché... è un'osservazione corretta. Levavcha innanzitutto è già una parola strana, dovevo dire libcha. Sì. Libcha, lev shelcha, il tuo cuore. Perché levavcha non è scorretto, ma qui c'è un'allusione che è un doppio cuore, quello che diceva prima Leonardo. Cioè i maestri dicono levavcha vuol dire entrambi gli aspetti del tuo cuore, entrambi gli aspetti della tua persona, cioè sia quella divina che quella animale. Kol levavcha vuol dire che devi tirare, trainare anche la parte animalesca verso HaKadosh Baruch Hu, non solo la parte divina. La parte divina, la parte spirituale interna, profonda, già c'è, già è legata. Levavcha vuol dire porta anche il Yetzer Hara, porta anche Nefesh HaBe'amit, anima animale, verso Hashem. E questa è la prima fase, e questa è la fase... in realtà forse più centrale nell'esperienza di una persona durante il corso della vita. La sua fatica principale è in questo ambito, perché la persona lotta sempre con se stessa. Questa lotta è questo Bechol Levavcha, portare il cuore verso la direzione giusta. Bechol Nafshecha vuol dire un'altra cosa. Se tu servi Dio con tutto il tuo cuore, cosa aggiungi quando dici con tutta la tua anima? La stessa cosa, no? Cioè, ci si è messo tutto il cuore, che altro ci devo mettere? Kol nafshecha vuol dire un'altra cosa. Kol nafshecha vuol dire anche se dovessi perdere la tua vita. Questo vuol dire con tutta la tua anima. Afilu notelet nafshecha. Anche se per servire Dio devi perdere la vita, sei tenuto a perdere la vita. Che vuol dire perdere la vita? Vuol dire, nel senso più semplice, alachico della cosa, che ci sono alcune, in particolare tre mitzvot specifiche. Normalmente diciamo che ogni mitzvah viene respinta davanti al pericolo di vita. Cioè, più importante la vita. Se devi profanare lo Shabbat, oppure morire, mai sia, no, devi profanare lo Shabbat, così potrai fare altre Shabbatot. E così per tutte le mitzvot. Però ci sono tre mitzvot che invece dobbiamo preferire la morte. Speriamo mai. Quali sono queste mitzvot? La prima. Idolatria. No, la prima. Qual è la prima? Cioè? Sono unico. Cioè? Cioè? Non è contro l'idolatria. Appunto. Ok, però... rispetto di Elohim. Che vuol dire? Vuol dire che esattamente l'altra faccia di questa moneta è quella della idolatria. Vuol dire, la prima di queste è la Avodah Zarah. Questa è la seconda dello, io la fa. Nahon, però è l'altra faccia della prima. Mm-hmm. Sì, sì. Rapporti vietati. E? Il capo della Urim. No, non devi morire per quello. No. Adulterio, vero? No. No, rapporti vietati include adulterio. Omicidio. Omicidio. Omicidio. Omicidio, rapporti vietati e idolatria. Queste tre mitzvot, anche se richiede il dare la propria vita per non commettere questi peccati, noi siamo tenuti a dare la nostra vita. Questo vuol dire Bechol Nafshecha. Quando serve, sei pronto a dare anche Nafshecha, anche la tua anima. E Bechol Meodecha, cosa vuol dire Bechol Meodecha? Le tue forze. Che vuol dire con tutte le tue forze? Se lo fai con tutto il cuore, lo fai con tutte le forze. Che vuol dire? Cosa si aggiunge con tutte le forze? Con tutte le possibilità che hai di opporti a questa cosa qua, voglio dire. Bechol mammoncha. Con tutti i tuoi beni. Vuol dire non rimane solo... Sì, hai detto con tutte le possibilità che hai, ma inteso in senso pratico. Sì, sì. Non è solo una cosa del cuore, cioè astratta, è anche una cosa pratica. Fisica. Sì. Una cosa sulla midà. Nel momento in cui noi ci annulliamo, sì, facciamo le berakot della midà. E queste berakot sono personali e anche della comunità. Giusto. E però quell'aggiunta che è stata fatta del Vela Mashinim, perché questa è stata... Sì, era la 19, sì, sì, approfondiremo più avanti quando sì, sì, dimmi la domanda. Questa qua, che c'entra? Nel senso, questa è stata fatta contro, perché contro gli eredici, no? Però, cioè, non credo che rientra nelle richieste interpersonali, no? Allora, innanzitutto l'Amidà include richieste che sono collettive, perché nell'ebraismo la collettività e la diciamo l'esigenza della collettività è anche l'esigenza di ogni singolo. Cosa vuol dire Kol Yisrael Arevim Ze Baze? Tutti gli ebrei sono garanti gli uni per gli altri. Siamo come una cosa sola. Quindi da una parte una mia richiesta personale diventa la richiesta anche di un altro, e la richiesta che coinvolge una collettività, anche se magari io non mi sento di esigere questa, però in realtà dovresti sentirlo perché tocca la collettività. E quindi una parte di te. Allora le richieste anche collettive sono viste in certo senso anche come richieste personali. Ecco perché sono inserite nella Amidà. Questa richiesta specifica, che appunto approfondiremo quando studiamo l'Amidà, vediamo tutte le brachot dell'Amidà, però in generale è vero che è stato inserito in un momento storico particolare, però è sempre valido, perché abbiamo sempre il problema. Di cosa si parla qui? Si parla qui in realtà della corruzione, del corrompere ciò che HaKadosh Baruch Hu vuole nella sua Torah. E di presentarlo in un'altra maniera che non è conforme alla intenzione originale. Quindi noi preghiamo che questo non ci sia, che non si corrompa il volere di HaKadosh Baruch Hu. Purtroppo c'è ancora. Mi siamo sempre minacciati. Proprio per questo, sì, diciamo in seguito alla domanda. Sì, sì. Quindi la tefillah è aperta, la tefillah è intesa come Amidah. Io intendo. Okay. È aperta. Che cioè, vuol dire aperta? Che come è stato potuto inserire in un momento storico particolare un'altra berakà come la Manchinim? Se speriamo mai ci fosse la necessità di inserire per un qualsiasi motivo una... Cioè... Qui, allora, ho capito la domanda. Qui entriamo in realtà la domanda non appartiene al mondo della tefilah, appartiene al mondo... Il contesto di questa domanda è se abbiamo oggi l'autorevolezza, o se esiste un corpo che ha l'autorevolezza oggi, di formulare nuove tefilot, così come di creare nuove istituzioni rabbiniche, così come è stata istituita la festa di Hanukkah, che ovviamente non è scritta sotto, è un'istituzione rabbinica. Abbiamo la possibilità di fare queste cose? Oggi la risposta è no, perché chi ha l'autorevolezza di mettere in atto questo tipo di decreto o di istituzione, che si chiama Gzera o Takana, un Bet Din Agadol, cosiddetto Sinedrio, cioè deve ritornare a riproporre. Il Bet Din Agadol sarebbe il corpo che è la corte più alta all'interno dell'ebraismo, che è, per avere quella designazione deve essere riconosciuta da tutto l'ebraismo. Ok? E in una linea ininterrotta dal primo questo Bet Din, che uno nomina il prossimo. cosa che noi abbiamo sia l'interruzione di questo, che da quando è stato redatto il Talmud non abbiamo una unica autorità che è riconosciuta da tutte le varie usanze o comunità ebraiche. Di conseguenza non abbiamo questa possibilità. Quando è stato messo per la Malshinim ancora c'era il Beit Din HaGadol, quindi avevano questa autorevolezza. Noi oggi non abbiamo questa possibilità, però abbiamo invece la possibilità di fare delle richieste legate a un momento specifico, innanzitutto all'interno del Shema Kolenu, oppure seguendo istruzioni di un Beit Din locale, su delle formule che però non rientrano nella Amidah stessa, ma che possono essere delle formule a parte, pensate per un determinato momento, ma non con la formula Baruch Atah Hashem, cioè creare una nuova Berachah, no, no. Questo non si può fare. Però formule diverse che possono essere composte da versetti dai salmi o preghiere di altro tipo, però diciamo nel canone della Tefilah non abbiamo l'autorevolezza di cambiare. Quindi questo sarebbe pure il motivo per cui quando tu hai detto che le richieste non nella lingua ebraica ma nella lingua normale si possono fare prima di Yule Ratzon, perché praticamente esatto, quando conclusa la Amidah tutte le Berachot, bravissimo, quando non dici più nessuno. Sì. Ok, allora se devo la prossima volta approfondiremo le halachot stesse della Tefilah.